componimento 147° del canzoniere di Francesco Petrarca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Quando il voler, che con duo sproni ardenti e con un duro fren mi mena e regge, trapassa d'ora ad or l'usata legge, per fare in parte i miei spirti contenti, trova chi le paure e gli ardimenti del cor profondo nella fronte legge, e vede amor che sue imprese corregge folgorar ne turbati occhi pungenti. Onde, come colui che il colpo teme, di Giove irato si ritragge indietro, che gran temenza, gran desire affrena. Ma freddo foco e paventosa speme dell'alma che traluce come un vetro, talor sua dolce vista rasserena. Fine del componimento.